I principi fondamentali. I principi fondamentali includono il principio personalista, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo, il principio pluralista, tipico degli stati democratici, riconosce i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali, la libertà di associarsi e di confessare la propria religione, la libertà dei partiti politici e dei sindacati. Il principio lavorativo, che dichiara che il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale. Il principio democratico, che include il principio di maggioranza, ma con tutela della minoranza, e la trasparenza politica e giudiziaria. Gli articoli che vanno dal 13 al 54 si occupano dei diritti e doveri dei cittadini e si basano su tre tipi di rapporti. 1. Rapporti civili, che sottolineano le libertà individuali sia di circolazione sia di soggiorno, e le libertà collettive che permettono ai cittadini italiani di godere del diritto di riunirsi e di associarsi, di professare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e i vari mezzi di comunicazione. 2. Rapporti etico-sociali, con riferimento al ruolo della famiglia, alla salute, all'arte e alla cultura, alla scuola. 3. Rapporti economici e politici, che parlano dell'organizzazione del lavoro e dei sindacati, delle elezioni con il diritto di voto personale, libero e segreto, e delle tasse che tutti i cittadini devono pagare secondo le proprie possibilità. Gli articoli che riguardano l'ordinamento della Repubblica parlano del Parlamento, che è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Il Presidente della Repubblica, eletto dalle Camere riunite, rappresenta l'unità nazionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri governa il Paese e deve avere la fiducia del Parlamento. In caso contrario, deve dimettersi. E la scelta del nuovo capo del governo spetta al Presidente della Repubblica. Il potere giudiziario sta nelle mani della magistratura, mentre il potere legislativo spetta alle due Camere. La Costituzione italiana, però, riconosce a tutti i cittadini il diritto di proporre nuove leggi. Un'altra parte della Costituzione garantisce le autonomie funzionali e finanziarie a comuni e regioni. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta sono regioni a statuto speciale e perciò dispongono di condizioni particolari di autonomia. Alla fine della Costituzione ci sono 18 disposizioni transitorie e finali che riguardano situazioni relative al passaggio dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.